oggi non si ferma più. Ascoltalo Gustavo e dopo giudica tu. E yo mo goditi sto beat, del tutto artigianale stile Biugi.it, con l'effetto surreale alla Magritte. Cieli azzurri sottonotte, s'attacca tipo colla Pritt, stick anche a chi se ne fotte. Fatte le presentazioni, non son duro e non son puro, tu dammi della merda e tempo un'ora sarà d'oro. Un uroboro che si morde la coda, ma vito su me stesso e parlo strano tipo Yoda. Si snoda, sto flow che sfila fluido, mo ti sferza e sta sicuro. Avverto in me la forza che fluisce, ma non cedo al lato scuro. Al lato pratico dei fatti incedo fiero, forse troppo. Su trappole di metriche al contempo compiacenti e malinconiche, fra disfunzioni croniche son toniche le meraviglie coniche che giro. Prendi un bel respiro, chiudi gli occhi e fatti un tiro. Questo non è rap, questo non è rap, questo non è rap. Come non è pipa ciò che tengo fra le dita. Ehi, non so se l'hai capita, ma capita che il blocco ti risolva la partita. Questo non è rap, questo non è rap, questo non è rap. Come non è pipa ciò che tengo fra le dita. Ehi, non so se l'hai capita. Fatti un tuffo nella luce di sta voce che dà pace, anche quando intorno tutto è nero come pece, intanto tace la massa senza volto e senza voce, tartarughe dentro al carapace, mentre invece c'è chi vola già alto sopra il duca tu c'ha. E ci sarà chi dice che il buon Biugi non ce n'ha, lasciali scegliere le imbarazzanti e martellanti rime, d'un tossico maciste mercantile senza lessico né stile. T'entra nei polmoni tipo polvere sottile questa vibra che sempre più si libra. Non mi ritengo marcio, in vero io non me la spaccio tipo Ibra. Potrò non aver stoffa, sta di fatto che sta fibra costa cara e sembra grezza come Iuta, mentre io regalo versi satinati tipo sete ha fatto Scrausi. E non son poi così malmesso da dovervi pure chiedere gli applausi. Questo non è rap, questo non è rap, questo non è rap. Come non è pipa ciò che tengo fra le dita. Ehi, non so se l'hai capita, ma capita che il blocco ti risolva la partita. Questo non è rap, questo non è rap, questo non è rap. Come non è pipa ciò che tengo fra le dita. Ehi, non so se l'hai capita. Ogni riferimento non è proprio casuale, ma onestamente massimo rispetto per ognuno. Tu gusta sta poetica da secolo XXI, dove tutti hanno fatto tutto e non ce n'è più per nessuno. Andando per il mondo scopro mucchi di monnezze a fondo, scivolando nell'ebbrezza. Di nuovo. Questo non è rap, questo non è rap, questo non è rap. Come non è pipa ciò che tengo fra le dita. Se l'hai capita, ma capita che il blocco ti risolva la partita. Questo non è rap, questo non è rap, questo non è rap. Come non è pipa ciò che tengo fra le dita. Ehi, non so se l'hai capita. Questo non è rap, questo non è rap. Questo non è rap né hip hop. Che se mi metti sopra un'etichetta strip hop. Musica senza confini, Biugi senza un filo di stress. E ti diranno questo non è rap. Ehi, ti diranno questo non è rap.